Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Oggi una puntata dedicata a chi pratica attività sportiva per mantenersi in forma, ma anche dedicata a chi inizia a praticarla proprio in questo periodo dell'anno per affrontare la prova costume. Allora, tutti sappiamo che muoversi fa bene, è un'abitudine salutare che ha numerosi vantaggi, non stiamo a ripeterli perché ormai qua a Essere e Benessere li conosciamo bene, ma è un'attività che va affrontata con le dovute attenzioni e precauzioni. Ce ne stiamo accorgendo tutti, adesso che inizia a farsi sentire il caldo, muoversi diventa più faticoso e spesso scappa la voglia. Allora, oggi, con i consigli dei nostri esperti, impariamo a scegliere e modulare l'attività sportiva per goderne tutti i vantaggi e soprattutto per far sì che resti un appuntamento piacevole. In linea con noi abbiamo il professor Michelangelo Giampietro, medico dello sport, specialista in scienze dell'alimentazione, autore di numerosi libri, tra cui uno che vi segnalo in modo particolare, L'alimentazione per l'esercizio fisico e lo sport, il pensiero scientifico editore. Professore, buongiorno. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Professore, mi dica proprio la verità. Ma ci sono più vantaggi o più rischi a fare sport con il caldo? Ma a fare sport, a fare attività fisica ci sono sempre più benefici che svantaggi. Mm. Certo, se riusciamo a farlo anche nelle condizioni di caldo, nelle maniere dovute, questi benefici li manteniamo, altrimenti corriamo il rischio di andare incontro a qualche problemino che chiaramente bene non fa. Ma uomo avvisato, mezzo salvato. E possiamo, direi proprio di sì. Ecco, possiamo declinarla anche con lo sportivo, sportivo informato, sportivo salvato. Ma professore, per chi è già allenato, cosa aggiunge o cosa toglie il caldo? Ma il caldo aggiunge un impegno fisico sicuramente maggiore. E quindi è tra virgolette anche più allenante, se non è fatto proprio nelle ore più calde e soprattutto in condizioni di umidità relative dell'aria troppo alte, perché più che il caldo in sé, quello che fa male al nostro fisico mentre facciamo attività è la combinazione di temperature elevate e umidità relativa elevata, cioè quei climi cosiddetti tropicali dove proprio anche se sudiamo non riusciamo a raffreddare il nostro corpo, perché il sudore, l'acqua del sudore non riesce ad evaporare a causa dell'umidità relativa. Quindi ci disidratiamo, perdiamo acqua, ma non raffreddiamo il nostro corpo. Questa è la situazione critica. Tutte le altre, se c'è una buona ventilazione, se l'umidità non è eccessiva e chiaramente anche se le temperature non sono le più torride possibili, sono tollerabili e condizionano anche positivamente il nostro organismo, il nostro fisico. Professore, molti di noi iniziano a praticare attività sportiva non per desiderio ma per necessità. Poi magari uno si diverte, vede che ha numerosi vantaggi, allora si appassiona. Penso a chi vuole perdere qualche chiletto, la prova costume si avvicina, puntuale come ogni anno, e allora uno dice vabbè, adesso mi tocca iniziare a correre, o vado in palestra, faccio qualche, prendo la bici e mi faccio un giro alla fine, no, della giornata di lavoro, che così mi sgranchisco. Anch'io le gambe, ma cerco di affilarmi un po' la coscia. Per chi inizia ora, come si deve comportare? Con molta cautela, perché l'allenamento, quindi l'attività fisica regolare, produce dei cambiamenti favorevoli e degli adattamenti anche sulla nostra capacità di disperdere calore. Per dire, il sudore di una persona allenata è diverso dal sudore di una persona non allenata. Chi è allenato suda di più, suda prima e suda meglio, perché il sudore ha meno sodio e meno minerali disciolti all'interno. Al contrario, chi non è allenato è più a rischio di andare incontro a quella serie di disturbi, cosiddetta patologia da calore, che possono cominciare anche con dei piccoli crampi, non solo ai muscoli interessati dall'esercizio, ma anche ad altri muscoli, per esempio della parete addominale, per poi arrivare a situazioni ancora più critiche, come può essere il collasso da calore, dove ancora sudiamo, ma la temperatura interna al nostro organismo sale troppo, fino ad una condizione estrema, che è il colpo da calore, che può anche essere a rischio per la vita di chi in quel momento subisce questo disturbo. Quindi chi non è allenato, la massima cautela, ottima idratazione, mai rinunciare all'acqua, evitare le giornate, le ore più calde della giornata, possibilmente farlo in una condizione di umidità non troppo alta e indossare il giusto abbigliamento. Meno indumenti abbiamo addosso, più il nostro organismo riesce a far evaporare il sudore e quindi ad abbassare la temperatura. Indumenti chiari, possibilmente traforati, di cotone o ancora meglio in questi tessuti tecnici che vengono utilizzati per gli indumenti per gli sportivi, che consentono proprio l'evaporazione del sudore. Comunque l'acqua sempre comunque a portata di mano in qualunque momento mentre si fa attività fisica. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti. E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. E così, lei ha corso e basta. Già. Professore, io vedo, inizio a vedere persone che corrono al parco senza maglietta. È una buona idea? Se si coprono la cute, soprattutto quelli di carnagione chiara, con una buona crema protettiva, sicuramente sì. Perché in questa maniera chiaramente consente all'organismo di scambiare maggiormente calore con l'ambiente esterno. Però bisogna proteggersi, perché altrimenti c'è un altro rischio, c'è il rischio di andare incontro a delle condizioni di ipertermia e di danno cellulare dovuta all'eccesso di esposizione al caldo, al sole, quindi evitare in tutti i modi di trovarsi come sulla spiaggia quando non ci proteggiamo. Certo. Insomma, il concetto è solo quello. Quindi un po' di buon senso, evitiamo le ore più calde e quindi possiamo dedicarci all'allenamento alla mattina o alla sera. Ma ecco, cambiare orario di allenamento può produrre qualche effetto nelle persone che regolarmente sino ad ora si sono ad esempio allenate al mattino o alla sera? Qualche piccolo cambiamento c'è, il nostro organismo chiaramente si abitua a certi ritmi, a certi orari, mal tollera tutto quello che è un cambiamento improvviso. Siamo regolati con la luce, il ciclo sonno-veglia, è chiaro che dal punto di vista ormonale e neuroendocrino ne risentiamo. Però anche qui è un po' come il discorso del cambiamento dell'ora legale, sì. Bisogna farlo con gradualità, senza spostare troppo bruscamente gli orari di allenamento, progressivamente spostarli e comunque sempre farlo in quando siamo nelle condizioni fisiche di poterlo fare, cioè se avvertiamo un senso di spostatezza, di fatica, di sonnolenza, forse è il caso di soprassedere e rimandare la seduta di allenamento ad un altro momento. Non facciamo gli eroi, ecco. Mai, perché, assolutamente. Ma no. Senta professore, però c'è un'ora limite entro cui è consigliato fare attività sportiva la sera, proprio per evitare di disturbare la qualità del nostro sonno. Certamente sì, e quando noi ci alleniamo, facciamo attività fisica, il nostro organismo produce tutte ormoni e sostanze eccitanti, no? L'adrenalina, come si suol dire, è una di queste, ma ce ne sono anche altre. Quindi se facciamo attività fisica nelle ore tarde della sera, a ridosso del momento in cui dobbiamo prendere sonno e riposarci, chiaramente questo sonno tarderà ad arrivare e sarà un po' disturbato. Cerchiamo di finire l'allenamento almeno un paio d'ore prima di andare a dormire e dopo l'allenamento, per conciliare il sonno, consumiamo dei pasti un po' più ricchi in carboidrati, perché i carboidrati facilitano la produzione della serotonina nel nostro organismo, e la serotonina è un antidepressivo naturale ed è anche una sostanza che facilita in qualche maniera l'addormentamento e la qualità del sonno. Insomma, anche degli accorgimenti, certo, nutrizionali, evitare il caffè evitare cibi troppo ricchi di proteine e un pochino più di carboidrati. Senta professore, a me piacerebbe, lei lo sa, dare il consiglio giusto, mirato a ciascuno dei miei ascoltatori, ma questo non è possibile perché per una valutazione corretta ci vuole tempo, bisogna considerare numerose variabili e poi al telefono tutto questo non è possibile. Ma proviamo insieme a individuare alcune tipologie di sportivi all'interno di due macro categorie che stiamo analizzando oggi, che sono quella di chi è già allenato e quella di chi muove ora i primi passi, se così possiamo dire. Sì, diciamo chi è già allenato faccia attività fisica senza problemi, continuando il suo programma di allenamento con la dovuta gradualità. Stia attento all'allenamento nelle ore più calde, non trascuri mai di curare abbastanza bene, massima attenzione all'idratazione e anche al rifornimento di carboidrati durante l'allenamento, perché quando aggiungiamo all'acqua dello zucchero e un pizzichino di sale, basta un grammo di sodio per il litro di bevanda, il sodio e lo zucchero facilitano l'assorbimento dell'acqua. Abbiamo bisogno di queste bevande, che possiamo fare in casa con del succo di frutta e un po' di sale o comprare già fatte come integratori idrosalini per lo sportivo. Queste bevande le dobbiamo usare quando l'attività fisica ha una durata superiore a un'ora. Sotto un'ora è sufficiente l'acqua, però consideriamo che quando c'è molto caldo consumiamo pur carboidrati e quindi abbiamo bisogno di aumentare un pochino la quota di carboidrati. Per chi invece è all'inizio del suo programma di allenamento, qui il consiglio è quello veramente del buon senso e della prudenza. Non si può cercare di ottenere in poco tempo quello che non si è fatto per tanti anni. Cerchiamo di prendere lo spunto dalle giornate estive, dal caldo, dal bel tempo per cominciare una pratica sportiva che, se possibile, non dovremo smettere mai per tutto il resto della nostra vita. Professore, ci sono dei suggerimenti che lei può dare ai nostri ascoltatori, che magari questa è proprio l'occasione, il periodo dell'anno in cui è bene abbinare o sostituire, no, una seduta di allenamento con la pratica di un'altra attività sportiva? Penso a chi regolarmente corre potrebbe fare altro, no, al sostituire una corsa, un periodo di allenamento con un tuffo in piscina. Penso a chi invece va in bicicletta o chi fa in palestra. Insomma, l'estate è un po' la stagione in cui si può integrare, scambiare, arricchire un pochino, no, la nostra schema di allenamento con qualche cosa di nuovo e di complementare. D'accordo perfettamente, soprattutto per anche dare un po' di sollievo e di svago alla nostra mente. Quando siamo impegnati per troppo tempo con lo stesso tipo di attività fisica, poi può sorgere un senso quasi di disgusto, di nausea, di rifiuto per quell'attività. E allora, ecco, cerchiamo di fare qualche cosa di diverso, all'aria aperta, per quelli che invece normalmente si allenano al chiuso, una disciplina differente anche per diciamo recuperare certi schemi motori, certi gesti che altrimenti facciamo meno, e quindi il nostro organismo si abitua a fare solo alcuni movimenti. Questo vale soprattutto anche per i ragazzi. Cogliamo l'occasione anche per fare delle esperienze nuove di una disciplina sportiva diversa, può darsi che in quella novità ci sia la disciplina giusta per la nostra vita e fino a quel momento non l'avevamo mai presa in considerazione. Fare una cosa differente, un'attività fisica differente, ci aiuta a fare meglio la nostra vacanza. Poi è chiaro che se uno durante l'anno non ha il tempo per fare abbastanza di frequenza la specialità, la disciplina che più preferisce, la vacanza, il tempo libero maggiore a disposizione, gli concediamo comunque di praticarla, perché in quel momento troverà la massima gratificazione e quindi anche il massimo beneficio dalla vacanza e dalla pausa estiva. Professore, io vorrei aprire una breve parentesi anche sui ragazzi. Loro il caldo proprio sembrano non sentirlo, ma un po' di attenzione non guasta. Assolutamente sì, anzi, più sono piccoli, così come per gli anziani, più devono fare attenzione ad idratarsi e ai problemi del caldo. L'organismo del bambino soprattutto, come quello dell'anziano, è meno pronto ad adattarsi alle condizioni di clima estremo, in particolare al caldo. Quindi per loro in particolare occorre la massima attenzione, la massima cautela, sempre ricordandosi che è fondamentale non trascurare mai la condizione di idratazione. E poi è facile sapere se siamo ben idratati oppure no. Se posso dare un piccolo consiglio pratico, deve, quelli che piacciono a te per i nostri ascoltatori, anche se l'argomento non è proprio dei più raffinati, ma per sapere se siamo ben idratati dobbiamo avvertire lo stimolo ad urinare non oltre le 4-5 ore, e le urine che facciamo devono essere abbondanti in quantità, devono essere chiare di colore e non devono avere odore pungenti. Bene, se le nostre urine hanno queste caratteristiche e se avvertiamo lo stimolo ad andare al bagno per fare un po' di pipì, certo, ogni 4-5 ore, vuol dire che il nostro organismo è ben idratato, altrimenti dobbiamo correggere la disidratazione aumentando la quantità di acqua che stiamo bevendo, o come acqua o come altre bevande che possono essere degli infusi, dei tè, ma dei succhi di frutta, dei centrifugati. Questo poi dipende da meglio siamo, non zuccherati, siamo in condizione, certo, di poter bere qualcosa di zuccherato o meno. Però un po' di zucchero serve, soprattutto col caldo, perché quando fa troppo caldo la glicemia si abbassa e rischiamo di andare incontro a qualche piccolo problema. Quindi una bevanda un po' zuccherata, fresca, che ci dà anche piacere e sollievo, non è mai sbagliata. Grazie professor Giampietro per essere stato con noi. Ricordo il libro che vi segnalo oggi, L'alimentazione per l'esercizio fisico e lo sport, Il pensiero scientifico editore. Professore, a presto, buona giornata. Buona giornata a tutti, arrivederci. E prima di dare la linea ai mercati vi invito ad andare a visitare il nostro Daily Lab, il laboratorio del benessere. Siamo quasi all'ora di pranzo, il consiglio di oggi ce lo regala la dottoressa Paola Reverso, nutrizionista, che ci raccomanda e ci insegna a preparare una ricca e gustosa insalata. Quindi andate sul sito di Radio 24, cliccate sul Daily Lab e buona insalata. Essere e benessere. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. E allora, cari amici, riprendiamo il tema di oggi, muoviamoci, pratichiamo attività fisica anche in estate, ma il nostro consiglio è usiamo la testa, il buon senso, no, no, no agli eccessi e soprattutto rispettiamo i segnali che il nostro corpo ci manda e forniamogli tutto quello di cui ha bisogno per lavorare e soprattutto per sentirsi bene. Regola numero uno, idratiamolo, ma ne parliamo con il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging e autore di un libro che vi ho più volte consigliato, Mangia che ti passa, uno sguardo rivoluzionario sul cibo per vivere più sani e più a lungo, PM Edizioni. Dottor Ongaro, buongiorno e bentornato. Grazie mille, buongiorno a tutti voi. Dottor Ongaro, è necessario idratarsi sempre, indipendentemente dall'attività fisica, perché anche respirando si perde un po' di acqua, no? Ma una corretta idratazione è ancora più necessaria in estate, quando per effetto del caldo c'è una maggiore dispersione dei liquidi. Questo lo sappiamo tutti. Ma oggi mi piacerebbe che lei ci desse alcuni consigli sul modo corretto di idratarci, aiutandoci anche a capire cosa perdiamo e come reintegrarlo. Ma assolutamente, direi anche di ricordare che calore e attività fisica sono ovviamente due fattori stressogeni per l'organismo, quindi nulla di preoccupante, ma va ricordato che ovviamente il nostro organismo deve adattarsi ad una temperatura che magari è fuori dalla zona di ottimalità, e questo richiede un consumo di un certo numero di sostanze, quindi non è soltanto un problema di dispersione attraverso il sudore, ma anche di vero e proprio consumo di sostanze che entrano a far parte delle reazioni biochimiche che servono all'organismo per adattarsi. Quindi noi abbiamo una perdita sicuramente di sali minerali, sicuramente di liquidi, ma anche di antiossidanti e di vitamine che sono fondamentali per fare attività fisica in sicurezza. Quindi direi che è un problema abbastanza complesso, e la regola numero uno è quella di non aspettare di essere disidratati per cominciare a reidratarsi, quindi iniziare a bere e bere continuamente durante l'attività fisica. La regola dovrebbe essere ogni 15-20 minuti sorseggiare un po' d'acqua. Acqua naturalmente a temperatura ambiente, ci sono delle indicazioni? Beh, sicuramente quello di bere, appunto, come è stato appena detto, acqua a temperatura ambiente per non provocare una reazione drastica a livello gastrico in un organismo ovviamente surriscaldato. Una bibita gelata non è certamente adeguato. Io credo molto nelle proprietà di reintegrazione di acqua e alimenti piuttosto che di, diciamo, in questo caso integratori o bibite con sali, eccetera. E quindi il consiglio che io do sempre ai miei pazienti è quello di bere acqua naturale e invece aumentare la quota di cibi che contengono acqua. Bisogna ricordare che non è soltanto attraverso la reintegrazione di liquidi che possiamo assumere quantità sufficienti di vitamine, antiossidanti e addirittura anche di acqua, ma anche col cibo. I cibi sono molto ricchi di acqua, soprattutto ovviamente le verdure e la frutta. Certo, quindi ci idratiamo bevendo, questo è intuitivo, ma anche mangiando. Ma tornerei un attimo ai liquidi, dottor Ongaro, per capire qual è la quantità di liquidi intese proprio come liquidi, come cose che possiamo bere, consigliata in estate in generale e per chi pratica attività fisica? Ma direi in generale io consiglio sempre di stare almeno attorno al litro e mezzo, due litri di acqua, e in estate questo può essere anche insufficiente, quindi bisognerebbe superare questa dose, ed è chiaro che questo è fattibile soltanto tenendo sempre a portata di mano una bottiglia, una bottiglietta, una borraccia, e appunto come dicevo prima ogni 20-30 minuti sorseggiare un po' d'acqua. E credo anche che sia importante ricordare una cosa: c'è una grossa differenza tra quelli che sono allenati e quindi si avvicinano alle attività fisiche in estate già con un, come dire, una preparazione fisica adeguata, e chi invece magari si inizia a fare attività fisica avvicinandosi alla stagione delle vacanze in un periodo già caldo ma fuori allenamento. Qui va fatta molta attenzione anche nell'allenarsi nelle ore giuste della giornata, insomma evitiamo in tutti i modi di esporci ad attività fisica durante le ore centrali, quando è bene invece stare magari a casa, soprattutto nel pieno dell'estate. Ecco, dottor Ongaro, sfatiamo una credenza che in alcuni casi può risultare davvero pericolosa, e cioè ci sono delle persone che dicono: faccio attività fisica anche quando fa caldo, soprattutto se fa caldo, tengo duro, faccio un grande sforzo perché più sudo più dimagrisco. Ma sì, questa è una credenza completamente sbagliata, è del tutto errato pensare che la perdita d'acqua abbia qualcosa a che fare con la perdita di grasso. Bisogna fare attenzione a non illudere le persone, perché è chiaro che quando io mi ripeso dopo un'importante perdita di liquidi peso meno, ma di fatto ho perso liquidi. L'attività fisica finalizzata a dimagrire non ha nessun bisogno di essere praticata in condizioni estreme, e direi anzi che è bene dire agli ascoltatori che è assolutamente pericoloso per persone non allenate esporsi ad attività fisica troppo intense nelle ore centrali della giornata. Mi auguro che ormai, insomma, la gran parte delle persone sappiano di queste cose, insomma, si tutelino, ecco. Dottor Ongaro l'ha anticipato, noi possiamo, anzi dobbiamo idratarci anche mangiando. Il contenuto di acqua degli alimenti è estremamente variabile: frutta, ortaggi, verdura, latte sono costituiti per gran parte d'acqua, non c'è che l'imbarazzo della scelta, ma dottore, credo sia utile dare dei consigli più mirati. Come deve cambiare la dieta estiva, specie per chi, approfittando della bella stagione, intensifica le sedute di allenamento? Ma come abbiamo detto in apertura, noi vogliamo anche occuparci di chi, volendo perdere qualche chilo proprio in questa stagione, inizia a fare attività fisica, ma non può permettersi di non tenere d'occhio anche le calorie. Ma direi che il fatto stesso di aumentare i cibi che sono ricchi di acqua e che quindi tecnicamente sono meno ricchi di calorie, si dice meno densi di calorie, sia la strada da percorrere. Questo ovviamente può essere fatto aumentando la percentuale, la quantità, diciamo, di verdure e di frutta, anche utilizzando la frutta come snack pre e post allenamento, che contribuisce appunto a reidratare. Alleggerire invece la quantità di carboidrati, di dolci, di zuccheri e anche direi di proteine a favore appunto della versione animale, a favore della versione invece vegetale. E ovviamente sono anche utili in questi contesti, è utile tenere presente quale frutta è più ricca di acqua. Mi viene in mente il melone o l'anguria, per esempio, che sono estremamente ricchi di acqua e quindi possono contribuire a reintegrare la quota di liquidi che abbiamo perso. Quindi un'alimentazione un po' più leggera, un po' più naturale, che tra l'altro non ha solo la funzione, diciamo, di aiutarci in questa stagione, ma in generale anche di migliorare la salute e farci perdere peso, stando soprattutto attenti alla distribuzione nel corso della giornata di questi alimenti, quindi non stare a digiuno tante ore a ammassare poi gli alimenti in un pasto unico, ma distribuirli assieme ai liquidi nel corso di tutta la giornata. A proposito di distribuzione, un'altra credenza è quella di chi vuole concentrare il consumo di frutta lontano dai pasti. Ci sono delle evidenze scientifiche che ci spingono a considerare se sia meglio utilizzare la frutta come fine pasto o tenerla invece lontano dai pasti? Ah, direi che lì c'è un po' il ragionamento attorno alla velocità di digestione degli alimenti, no? Quindi si tende a suggerire la frutta lontano dai pasti, anche se io personalmente ho l'impressione che sia un fattore molto più legato alle singole abitudini ed individualità. Certo, se uno si accorge che la frutta mangiata ai pasti lo appesantisce, allora credo che sia una buona regola separarla dall'alimento principale. Uno dei vantaggi per assumere frutta lontano dai pasti è quello che in questo modo possiamo sostituire degli snack meno sani con uno snack sano. Se invece concentriamo anche la frutta nel corso del pasto, alla fine del pasto, può essere che poi quando abbiamo fame nel corso della giornata prediligiamo qualcosa che è magari meno salutare, quindi questo potrebbe essere un vantaggio al di là del discorso della velocità di digestione. Comunque, promosse in blocco sia la frutta che la verdura, non abbiamo possiamo sbizzarrire la nostra fantasia e quindi seguire un po' i nostri gusti, anche se non dobbiamo dimenticare che la frutta è parecchio zuccherina. Assolutamente, però c'è da dire che la frutta contiene ovviamente grandi quantità di fruttosio, ma contiene anche fibra che contribuisce a rallentare l'assorbimento di questo zucchero e quindi ha un effetto diverso sulla nostra glicemia e sulla produzione di insulina. E d'altro canto ricordiamoci anche che frutta e verdura fanno parte delle linee guida internazionali per quello che riguarda l'alimentazione sana, al di là del discorso estivo e del problema idratazione. Quindi se pensiamo che la quantità di verdura consigliata in generale sono 5 porzioni al giorno, credo che la maggior parte delle persone sia piuttosto lontano da questo e quindi cogliamo l'occasione dell'estate per avvicinarci a questo traguardo che è invece scientificamente dimostrato essere molto importante. Per vivere più sani e più a lungo. Esattamente, per vivere più sani e più a lungo. Dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi. Ci vuole un fisico bestiale. Allora mi devo arrabbiare. Se ti fa piacere. Che muscoli. Sei un atleta. Il mio primo set di pesi. I pesi che ti hanno trasformato da un pappamolle bavarese in una massa di muscoli pulsanti. Anche per bere perfumo. Sì. Undici. 12. Sapete, ragazzi, riesco a farne il doppio di quando ho cominciato. E guardate che addominali. Ci vuole un fisico bestiale. Tonici e scattanti in forma per la prova costume, questo è l'obiettivo di molti di noi, però ragazzi non è necessario essere scolpiti. Quello a cui dobbiamo puntare è conservare una buona massa muscolare, non solo per fare bella figura in spiaggia, certo aiuta, ma insomma se ci guardiamo ad esempio allo specchio noi ci rendiamo conto che col passare degli anni i nostri muscoli cambiano, è naturale e contemporaneamente si riduce anche la forza fisica. C'è un termine tecnico per descrivere questa condizione, si chiama sarcopenia. Tutto normale, però succede anche agli atleti, ai grandi atleti, ai campioni. In linea con noi Yuri Keiki. Ciao Yuri. Buongiorno, ciao. Yuri, adesso noi andiamo a sentire il traffico e poi ci faremo raccontare da te come un grande atleta, un campione come te, aiuta i suoi muscoli a stare bene e preserva, oltre che la forma, anche la forza muscolare. A tra poco. Essere e benessere. E torniamo ad occuparci dei nostri muscoli, lo facciamo con un grande atleta, con Yuri Keiki. E sappiamo che anche i muscoli, come le altre parti del nostro organismo, invecchiano. Yuri, capita anche ai migliori. Ci mancherebbe, è giusto così, c'è una perdita fisiologica dopo circa il 40° anno d'età, che è stimata e calcolata circa l'8% l'anno. quindi è normalissimo. Io purtroppo, anche se è da poco che ho passato questa soglia, l'ho percepita con concretezza, sia per la perdita di massa muscolare, anche un po' per la funzionalità, per l'esplosione del muscolo, insomma, per la reattività, ecco, del muscolo. Ma è normale, fisiologico. È normale, e quindi è normale che noi facciamo un pochino più fatica, superati gli ant, ad allenarci, ad avere delle performance sportive che, insomma, che ci danno soddisfazione? È normalissimo, chiaramente, però ora il muscolo ha la possibilità di essere in qualche modo aiutato a far sì che questa diminuzione sia sempre più possibile controllata, diciamo. Quindi con un'attenta alimentazione, con un'attività fisica il più possibile continuativa, e anche eventualmente dei supplementi orali che in queste occasioni possono essere utili, parlo di supplementi chiaramente proteici e vitaminici, si può in qualche modo ridurre quella, ripeto, fisiologica perdita di massa muscolare. Yuri, tu tra l'altro sei stato testimonial di una campagna nazionale di sensibilizzazione contro la perdita di massa muscolare correlata all'età, Più Forza Nella Vita. C'è sì. Questo camper che è passato un po' per tutta Italia, e so che tu hai seguito un po' questa campagna. Come stiamo a muscoli noi italiani? Ma diciamo che stiamo benino. Io l'ho seguita perché credo che sia sempre di più un problema, la sarcopenia sarà sempre più di attualità, è la nostra, soprattutto in Italia, è una società che nel 2030 avrà più del 35% di ultra 65 anni, e quindi ci sono concrete possibilità che dai 65 e anche ultra 80 anni saranno in grande aumento, possano avere dei problemi e essere in qualche modo sottoposti a delle problematiche, appunto, di sarcopenia, e quindi che poi si rivestono in tante altre situazioni anche di patologie un pochino più gravi se la muscolatura non funziona. Quindi ritengo una campagna molto giusta, che va in qualche modo a sensibilizzare, a prevenire e a vedere, insomma, come stanno i nostri attualmente giovani, ma fra un po' di anni un po' meno giovani. Anche diversamente giovani, Yuri. Diversamente giovani. Senti, Yuri, ci dai mi basterebbe un consiglio, perché noi ogni giorno a Essere Benessere cerchiamo di dare dei consigli pratici adatti ai nostri ascoltatori, quindi ci rivolgiamo alle persone sane, un consiglio senza controindicazioni per continuare a stare bene. Allora, innanzitutto fammi dire che io sono faccio parte di quegli ascoltatori che giornalmente quando può ti segue, perché i consigli che date sono veramente giusti e interessanti. Però se posso Grazie. Dire, io credo che sarebbe una buona cosa, come dicevo prima, cercare di trovare ogni giorno, e si può fare, quella 20 minuti, mezz'ora che riesce, da dedicare al proprio corpo, facendo quindi dell'attività a seconda, appunto, delle possibilità e dell'età, un'attività motoria attenta e guidata da qualche esperto, e ogni giorno trovare quella mezz'ora per dedicare al nostro corpo. Mensana in corpore sano è corretto, ma anche corpore sano in mensana, secondo me, può aiutare a star meglio con se stessi. Grazie a Yuri Checchi per essere stato con noi. Buonissima giornata. Grazie, grazie Yuri. Allora, non ci resta che muoverci e mangiare in modo equilibrato. Sono dei consigli che ci sentiamo dare regolarmente dai nostri esperti, perché è una strategia molto semplice che è provata scientificamente. Ma come possiamo accorgerci se i nostri muscoli sono ancora tonici, se stanno bene o se invece stanno un po' cedendo all'età? In linea con noi abbiamo il professor Francesco Landi, del Centro di Medicina dell'Invecchiamento dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e responsabile scientifico della campagna Più Forza Nella Vita, di cui abbiamo parlato con Yuri Checchi. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Allora, professore, io guardandomi allo specchio, io vedo le mie figlie che hanno 20 anni, io ne ho qualcuno di più, e vedo già, basta un colpo d'occhio per capire che i muscoli sono diversi, no? Il tono muscolare è differente. Ma oltre al colpo d'occhio, che cosa possiamo fare noi come una sorta di autodiagnosi per capire lo stato di salute e di efficienza dei nostri muscoli? Sicuramente già quello che lei ha detto è molto significativo, perché noi dobbiamo subito chiarire: noi raggiungiamo il picco di massa muscolare, cioè il massimo della nostra massa muscolare, proprio intorno ai 20, 25, massimo 30 anni, però riusciamo a conservarlo in maniera abbastanza semplice fino ai 40 anni. Da 40-45 anni inizia il declino che noi definiamo fisiologico, cioè fisiologicamente iniziamo a perdere massa muscolare, a diminuire proprio la quantità di muscolo che noi abbiamo. Ora, da un punto di vista proprio di, se vogliamo, di autodiagnosi, possiamo cominciare appunto a realizzare quanto in realtà proprio da un punto di vista anche volumetrico il nostro muscolo si riduce, per esempio il muscolo a livello del braccio o il muscolo a livello della coscia o ancora della gamba. E poi noi dobbiamo tenere presente una cosa, che quando parliamo di sarcopenia, quindi di perdita di massa muscolare, noi intendiamo anche la perdita della forza muscolare e della funzione muscolare. Quindi quello che noi possiamo iniziare ad avvertire è in qualche modo una riduzione della nostra capacità, per esempio, di affrontare alcuni sforzi, quindi una maggiore fatica a salire le scale o per esempio ad alzarsi da una poltrona o a portare per esempio degli oggetti relativamente pesanti. È chiaro che questo dai 40 ai 70 anni è qualcosa di molto sfumato, perché la perdita è una perdita in percentuale molto ridotta, intorno al 5-8%. Quello che invece noi diciamo adesso è estremamente importante, perché questo subisce una forte accelerazione dopo i 70 anni. Quindi questa riduzione della massa, della forza e della funzione muscolare diventa molto significativa dai 70 agli 80 anni, agli 80 anni in più, che ormai noi sappiamo essere un'età che facilmente i nostri anziani raggiungono. Per fortuna, così ci arriveremo anche noi. Esattamente, esattamente. E questo diventa molto importante, perché noi sappiamo che poi intorno a quell'età la riduzione della massa muscolare non è solo più un fattore estetico, ma è un fattore funzionale. Perdere massa muscolare, perdere forza muscolare significa avere per esempio un aumentato rischio di cadere. Certo. E questo aumentato rischio di cadere comporta un aumentato rischio per esempio di frattura di femore. Quindi oggi abbiamo compreso che il muscolo e la salute del muscolo è parimenti importante alla salute dell'osso, quindi possiamo dire attenzione all'osteoporosi, ma al tempo stesso attenzione alla sarcopenia, cioè alla perdita di massa muscolare. Professor Landi, dieta equilibrata, attività fisica regolare costante, bisogna comunque vincere la pigrizia, muoversi fa bene ad ogni età, hanno bisogno di qualcos'altro i nostri muscoli? Per esempio un adeguato apporto di vitamine, in particolare della vitamina D, che noi fino a poco tempo fa sapevamo che la vitamina D, e sappiamo tuttora, è estremamente importante insieme al calcio nella salute dell'osso. La vitamina D oggi abbiamo, tra virgolette, scoperto che è estremamente importante anche per la salute del muscolo. Quindi dieta equilibrata e il giusto apporto vitaminico, la dieta amica dei muscoli, la vitamina amica dei muscoli è la vitamina D. E per tutti un consiglio: muoviamoci, investiamo nel movimento. Professor Landi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie altrettanto. E per oggi è tutto, io vi saluto, vi do come sempre appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.